100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Sebastiano Barisoni. Se l'Unione Europea vuole essere percepita non solo come un ragioniere contabile, ma anche come un elemento di coesione, la strada è quella intrapresa ieri dal vicepresidente della Commissione Europea, Timmermans. Timmermans infatti non ha escluso che da marzo la Commissione Europea possa intraprendere delle procedure di infrazione contro gli stati che non effettueranno i previsti ricollocamenti dei rifugiati. Il vicepresidente della Commissione Europea ha aggiunto che è ingiusto lasciare tutto il peso su Italia e Grecia e i ricollocamenti sono necessari perché c'è una promessa presa dagli stati membri e il controllo delle frontiere da solo non basta. Questo in un'Unione Europea dove i maggiori ricollocamenti, per esempio dall'Italia, sono stati quelli in Germania, seguiti da Norvegia e Olanda, e dove due paesi, pur beneficiari dei contributi dell'Unione Europea, mi riferisco a Polonia e Ungheria, non ne vogliono sapere di prendersi anche gli oneri. Ma al di là della disputa tra paesi aderenti all'Unione Europea, l'idea che la Commissione non vada a comminare infrazioni solo per gli stati che sforano anche di qualche decimale il deficit previsto dà appunto l'immagine di una Commissione che vuole imporre la propria autorità e che non si occupa, pur con tutto il rispetto, solo degli 0, nel deficit di un paese. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alessandro Plateroti. Chissà se la Merkel pensava proprio ai dati della bilancia commerciale tedesca quando qualche giorno fa ha detto che l'Europa dovrebbe prepararsi o potrebbe dover affrontare un sistema a due velocità, con paesi più ricchi e paesi più poveri che si gestiscono la propria moneta e la propria politica economica autonomamente. I nuovi dati sulla bilancia commerciale tedesca, cioè l'export della Grande Germania, hanno infatti raggiunto un livello record, il più alto dalla Seconda Guerra Mondiale. Stiamo parlando di un attivo, di un surplus di 252,9 miliardi di euro, una quantità impressionante che conferma la forza della Germania su tutti i mercati internazionali e conferma in parte le critiche di Donald Trump rivolte contro l'Europa, e cioè di utilizzare in modo artificiale il cambio, tenere basso l'euro, per tenerlo svalutato, per avvantaggiare proprio Berlino e il suo export in tutto il mondo. Il tema è controverso non soltanto perché sta animando la tensione sulle due sponde dell'Atlantico, ma soprattutto perché continua a confermare in Europa il fatto che le due velocità esistano e che tanto la politica monetaria quanto quella di Bruxelles in fondo non rispecchino la vera, il senso dell'Unione, cioè il beneficio comune. Ci sono alcuni che guadagnano di più e altre che non guadagnano affatto, come vediamo dai nostri dati della disoccupazione o addirittura del PIL. Il tema è di grande attualità e di grande importanza, perché in un momento in cui si discute di patti di stabilità, di procedure di infrazione, è bene ricordarsi che quella che conta è la realtà, e la realtà viene soltanto dalle cifre. C'è chi cresce troppo e chi non cresce affatto, e non solo per colpa sua. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.